davanti all'aeroporto. Qualche minuto più tardi. È libero? Sì, signore. Prendo la valigia? Sì, grazie. Dove andiamo? All'hotel Berchielli, per favore. In via Cerretani, vero? Esatto.